Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Sin dalla nascita, l'uomo porta sulle spalle il peso della forza di gravità e è inchiodato alla terra. Ma basta che scenda sotto la superficie dell'acqua ed è libero. È una frase di Jacques Cousteau, esploratore e oceanografo francese. L'acqua è la cosa più antica che possiamo tenere in mano. È sempre stata una risorsa preziosa e indispensabile per la vita dell'uomo e di ogni essere vivente. Solo dove c'è acqua c'è vita, nell'universo conosciuto. L'acqua che beviamo oggi ha un passato che inizia forse sul fondo degli oceani. In ogni sorso ci sono molecole che abbiamo condiviso con altre forme di vita. E quando la beviamo, entriamo a far parte di una delle storie più antiche della Terra, il ciclo infinito dell'acqua. Non ci si ferma mai a pensare all'acqua, perché è un elemento quotidiano, eppure è così ricco di impieghi e significati. Nella cultura primitiva è considerata il principio femminile della fertilità. Le manifestazioni che associano alla sacralità dell'acqua e quindi del mistero che la correla strettamente alla vita sono molte in tutto il mondo e in tutte le culture, antiche e recenti. Non è un caso se nella maggior parte delle religioni è per mezzo dell'acqua che avviene il battesimo. Inoltre, oggi più che mai, la scarsità dell'acqua è alla base dei problemi sociali e in alcune regioni del pianeta questo può innescare violenti conflitti. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo la storia di una ragazza che nell'acqua passa la sua vita. È bionda, altissima, giovane e affascinante. Il suo nome è Federica Pellegrini. Federica Pellegrini. Sono Federica Pellegrini, sono nata a Milano il 5 agosto 1988, la città che più amo è Venezia. Venezia, acqua, ancora acqua e sempre più acqua. Per Federica, la nuotatrice italiana più conosciuta al mondo, l'acqua è molto di più di un lavoro. Le sue giornate iniziano e finiscono in piscina, i suoi allenamenti durano 8 ore al giorno. La piscina è un divertimento da una vita. Molti bambini fanno corsi di nuoto. Alcuni sono ancora neonati quando imparano a galleggiare. Il nuoto è importante per la salute perché migliora tutti i principali componenti della forma fisica: la resistenza, la forza muscolare e l'elasticità. A differenza di altre forme di allenamento, mette in esercizio tutti i muscoli, specie quelli delle braccia, i pettorali e i dorsali, e nonostante gli alti livelli di energia che richiede, il rischio di farsi male è minimo, perché l'acqua riduce gli effetti della gravità. L'acqua scivola sul corpo, lo accarezza, fa un massaggio dolce e omogeneo. Le masse muscolari devono essere tutte in perfetta sincronizzazione e questo, unito all'ambiente stesso dell'acqua, ha l'effetto benefico che ricorda un ritorno al grembo materno, con un richiamo inconscio a uno stato di pace e di protezione. Perfino Pippo, l'eroe di Walt Disney in un vecchio cartone animato del 1942, spiega in modo divertente, tipicamente surreale, quanto sia importante il nuoto. Tutti dovrebbero imparare a nuotare. Probabilmente l'elemento che più ha contribuito alla popolarità del nuoto è stato l'intelligente costume da bagno. Non dovrebbe essere troppo osé, ma comunque è sufficientemente piccolo per permettere una completa libertà di movimento. Nella tranquillità e sicurezza della vostra casa e con l'aiuto di un semplice sgabello, impariamo gli elementari movimenti del nuoto. Il nuoto è una disciplina durissima che costringe a sacrifici quotidiani. Siccome viene premiata la velocità con cui vengono coperte le distanze, la tecnica di esecuzione sia della bracciata che della virata, vale a dire il cambio di direzione una volta giunti a fondo vasca, deve essere perfetta, ineccepibile sotto ogni punto di vista. Ma chi ha lo spirito da campione non si spaventa davanti alla fatica. E per Federica Pellegrini, vivere senza il nuoto è inconcepibile. Non entrare in acqua, non poter entrare in acqua, per me è quasi assurdo, no? Fin da piccola ha la sensazione che nel suo destino ci sia scritto qualcosa di grande. Si sente quasi una predestinata. Incomincia a nuotare perché lo fa sua madre, ma all'inizio è solo un divertimento. La sua è una famiglia serena che l'appoggia in tutto quello che fa, ma senza l'assillo del successo. In famiglia siamo in quattro: mio padre Roberto, mia mamma Cinzia, mio fratello Alessandro. Il mio rapporto è bellissimo con tutti e tre. Con mio fratello abbiamo fatto un tatuaggio uguale, che è nient'altro che noi. Con mio padre c'è un rapporto comunque bellissimo anche con lui. Lui è molto geloso di me, come penso qualsiasi padre con la figlia. Invece con mia mamma è come se fosse non un'amica, però molto di più. Federica è una bambina timida, ma con il sorriso sempre stampato sulle labbra. È vivace, ma obbediente. Non sente quella voglia di trasgredire per forza che viene spesso da un'educazione rigida. Sì, sì, ero molto vivace, però sono sempre stata buona caratterialmente. Non dormivo facilmente, infatti dai racconti dei miei genitori per farmi addormentare dovevano portarmi in bicicletta in giro. Eredita dalla mamma la capacità naturale di stare nell'acqua e dal papà la potenza muscolare. Non ci vuole molto tempo per capire che quella per il nuoto è qualcosa di più di una passione. Inizia così a gareggiare. I suoi genitori sono fieri di lei, ma non la mettono mai sotto pressione, non la controllano con il cronometro a bordo vasca. È piccola, eppure è già velocissima. Sa perfettamente cosa vuole e sa che stare nell'acqua è la sua vita. Sa che il nuoto è il suo sogno. E così, dopo i primi piccoli successi conseguiti alla Serenissima Nuoto di Mestre, si trasferisce a Milano. Naturalmente va con lei il suo allenatore, Massimiliano Di Mito, una figura quella del preparatore che è anche una guida fondamentale, come racconta il campione olimpico Michael Phelps. Non basta avere talento per diventare grandi atleti. Ci vuole un coach che sappia essere anche padre e amico. Rigoroso, intransigente, inflessibile, pignolo, perfezionista, ostinato. Deve spronarti in tutti i modi, ma senza mai buttarti troppo giù. È un grande lavoro, soprattutto psicologico. L'allenatore è una figura fondamentale. Federica lavora sodo, ogni giorno, per settimane. Di Mito urla, la abbraccia, la manda in crisi, la consola, in parole povere, la fa diventare una vera nuotatrice. E nel 2004 è finalmente pronta per le Olimpiadi di Atene. È il primo grande momento in cui Federica può dimostrare a se stessa e al mondo intero quanto vale. Amici, parenti e squadra puntano tutto su di lei e aspettano l'inizio con il fiato sospeso. Lei a bordo piscina, cuffia in testa, costume tecnico, guarda l'acqua. Ha tanta paura, ma è più forte la sua voglia di sfidarla. Fischio del giudice di gara. Ci si gioca tutto. E adesso è il momento della verità. Il passaggio di Federica in testa, 1:28:20, e si lancia verso questa possibile medaglia d'oro. Le sue voglie opposte a quelle altrui. Medaglia d'argento nei 200 stile libero. Il risultato è strepitoso e vede il ritorno sul podio olimpico di una nuotatrice italiana dopo 32 anni dall'exploit di Novella Caligaris. Federica, a 16 anni e 12 giorni, è la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Sono stracontenta. È stato un argento molto sofferto, anche perché quest'anno insomma ho lavorato tanto, forte, quindi credo di essermelo meritato. È felice Federica, ha creduto in se stessa e nel suo talento e il successo le sta dando ragione. È così fiera che non si preoccupa neanche delle sue rivali in vasca. Per esempio c'è una ragazza francese, lunghi capelli biondi e sicurezza ostentata, che ad Atene ha vinto addirittura un oro nei 400 metri, un argento negli 800 e un bronzo nei 100 a dorso. Ma Fede vuole solo godersi il suo momento. Dopo Atene, per Federica la strada diventa in salita. La prospettiva dei mondiali di nuoto di Montreal, Canada, nel 2005, le crea grande tensione e l'ansia da prestazione è alle stelle. Federica si fa prendere dal panico e anche se riesce a conquistare a fatica un altro argento, è impaurita e insoddisfatta. Diventa difficile perché comunque mantenere questi titoli, questi tempi non sarà facile. Nel frattempo, agli stessi mondiali, ma nella vasca dei 400 metri, la ragazza francese tenace e polemica conquista il suo primo oro mondiale. Federica la guarda dagli spalti e lei, agguerritissima una volta sul podio, le lancia una sottile occhiata di sfida. Hanno praticamente la stessa età, sono entrambe belle e talentuose, ma mentre una è sicura di sé al limite dell'arroganza, Federica comincia a mostrare le sue debolezze, prima all'allenatore e alla sua famiglia e poi ai suoi tifosi. Agli europei di Budapest del 2006, per via del suo stato psicofisico precario, decide addirittura di non partecipare né ai 100 né ai 200 stile libero. La sua rivale, al contrario, con 4 ori e 3 bronzi, diventa assoluta protagonista. Il suo nome è Lorman Odu. Lorman Odu. Federica non regge la batosta e decide di cambiare coach. Sceglie Alberto Castagnetti, il CT della nazionale che la conosce benissimo e in spogliatoio le promette: da settembre ti allenerai con me. Un uomo rigido, intransigente, ma che al CONI adorano tutti, come ricorda un collega. Castagnetti io non lo conoscevo molto, poi abbiamo avuto la possibilità di stare 10 giorni a Pechino insieme e l'ho ammirato per la sua grandissima umanità e poi che poi riusciva a tutti i concetti, anche difficili, riusciva a semplificare. Per cui diciamo, ho avuto questa bella impressione di un grande uomo di sport, per primo, e poi di un grande tecnico. Lui è rigido, ma diventa in poco tempo un vero e proprio mentore per Federica. I due passano insieme le giornate e litigano tantissimo. Quando lei rilascia un'intervista facendosi scappare qualcosa di troppo, lui la minaccia di non allenarla più. Lei lo provoca, lui si infuria. È un rapporto molto vero il loro, fatto di amore e odio, di grande intensità, perché i due si sentono liberi l'uno con l'altro. Castagnetti è il grande maestro che prende con sé Federica quando è nella peggiore delle sue condizioni, in un momento negativo in cui tutti la giudicano ormai finita. Le insegna a uscire da una crisi, a non mollare mai e soprattutto a non porsi dei limiti. Giorno dopo giorno la fa migliorare, le dà consigli su come affrontare il nuoto e la vita. Considera Federica una delle sue figlie e lei, dal canto suo, lo considera a pieno titolo il suo secondo padre. Melbourne, Australia, mondiali di nuoto del 2007. Sta per cominciare la semifinale dei 200 metri stile libero. Castagnetti e Federica, come prima di ogni gara, si sono blindati dentro una stanza per gli ultimi consigli. Lui le prende la testa tra le mani, la guarda dritto negli occhi per 30 secondi, senza parole, basta uno sguardo. A bordo vasca, vicino a Federica, c'è Lorman Odu, ostinata, superba e sicura di vincere. È una tigre che riesce sempre a ottenere tutto quello che vuole e le basta accennare un saluto provocatorio per farlo capire alla sua rivale. Ma questa volta Federica intende giocarsi il tutto per tutto. Un vero spettacolo, Federica Pellegrini. Guarda che terzo 50, 1:26.74, passa in testa, 29:67 di parziale. È la più veloce nel terzo 50, via per l'ultimo. E siamo a passo dal record del mondo, dovesse chiudere con un altro 50 di questo livello, c'è il record del mondo. Risponde la Lursa alle attacchi di Federica Pellegrini, ci prova anche la Jedrejak. Ma non ce la fa, guarda, cerca di rientrare, risale, ma sono avanti loro due. Attenzione alla finale, Federica va avanti, va a toccare per prima, va a toccare per prima, prima è lei. C'è il record del mondo, andiamo! Il nuovo primato del mondo. E primati italiani. Il destino questa volta è dalla parte dell'italiana. Federica vince e conquista il record del mondo. Esce dalla vasca, corre ad abbracciare Castagnetti e con lui piange di felicità. La francese invece la prende malissimo. Sbatte la porta dello spogliatoio e si chiude dentro a piangere per la rabbia. Ma l'istinto di sopravvivenza prende il sopravvento e in poco tempo Lor si rialza più forte di prima. Mancano solo 20 ore alla finale e perdere una battaglia non vuol dire certo perdere una guerra. Lorman Odu è una cannibale delle vasche, si getta su tutto come una vera predatrice e in un attimo, facendo un tempo di un secondo più veloce, ruba a Federica l'illusione di essere la più forte del mondo. Federica si può consolare con un terzo bronzo, ma non è nulla se confrontato alla delusione. Lor per lei è più di una rivale, è un incubo, è la persona che le ruba i sogni. Ma il destino può ribaltare il futuro in un soffio. A Destini Incrociati siamo in piscina, è il 2007. E due ragazze del nuoto, l'italiana Federica Pellegrini e la francese Lorman Odu, continuano a sfidarsi, diventando una artefice del successo o dell'insuccesso dell'altra. Federica, ai mondiali di Melbourne, ha conquistato in semifinale il record del mondo. Ma Lore gliel'ha strappato via nella finale, meno di 24 ore dopo. Per Federica è l'ennesimo duro colpo che, da donna fragile e insicura qual è, la porta perfino ad avere gli attacchi di panico e a non riuscire più a entrare in acqua. È quasi assurdo, no? Sembra assurdo raccontarlo, però avevo proprio paura di annegare. Per Lore, al contrario, è il momento d'oro. È giovane, bella, vincente e seguita dai tifosi. Ha un fidanzato italiano, il nuotatore Luca Marin, anche lui atletico e fascinoso, e i media seguono giorno dopo giorno la loro storia d'amore. A volte è difficile. Ci possiamo allenare insieme, ma poi abbiamo dei ritmi duri. Lui sta in Italia, io in Francia. È complicato, ma ci amiamo molto. Ci vorremmo sposare prima o poi. Lei è una ragazza che ama mettersi in mostra, che ama i gesti eclatanti e dalla vasca comunica con Luca attraverso un loro personale alfabeto che tutti vedono ma senza capire. Non le importa del pubblico, anzi bacia il suo fidanzato in piscina, sembra farlo apposta per provocare la curiosità. Sa perfettamente cosa vuole, fin da quando a soli 5 anni inizia a nuotare e sente che è quella la strada della sua vita. Lore Manaudou, classe 1986, nasce in una cittadina non lontano da Lione. È figlia di una giocatrice di badminton di origine olandese, che le trasmette lo spirito di competizione, il gusto della sfida e la voglia di vincere. Si prende moltissimo dai genitori. Io stavo sempre con mia mamma. È lei che mi ha insegnato a essere indipendente, a cavarmela sempre da sola e a lottare con le unghie e coi denti. Lore non ha mai paura, morde la vita e tutto quello che le sta intorno, se lo vuole, diventa suo. Inizia a vincere subito e la temono tutti fin dalle prime gare. 2004, Europei di Madrid, 3 ori. Stesso anno, Olimpiade di Atene, 1 oro, 1 argento e 1 bronzo. Nel 2005, 6 ori internazionali, con 2 record del mondo agli europei in vasca corta a Trieste. E poi oro ai mondiali di Montreal e trionfo assoluto agli europei di Budapest del 2006, dove porta a casa 4 ori e 3 bronzi, mentre Federica Pellegrini decide addirittura di ritirarsi. Insomma, una parabola ascendente che culmina a Melbourne, con il record del mondo soffiato alla Pellegrini e la consacrazione ufficiale nella storia del nuoto. Lore Manaudou è una star dello sport, in Francia e nel mondo. Non ha un carattere facile. È abituata a esasperare le situazioni, a sfogare la sua rabbia in scenate plateali. Vive sull'orlo dell'eccesso, si diverte a scandalizzare, a provocare e non rinuncia mai a niente. Fa sempre tutto di testa sua. Come quando, dopo i mondiali di Melbourne, decide di lasciare la Francia per seguire in Italia il suo fidanzato, il nuotatore Luca Marin, vice campione mondiale e continentale dei 400 misti. So che è una decisione avventata, lasciare tutto per amore, ma sento che è la cosa giusta. Io voglio avere un figlio da giovane e lo voglio avere da Luca. La società La Presse di Torino spinge per averla, per avere la campionessa con il viso da attrice che sfonda anche in un pubblico lontano dallo sport in vasca. Le mette a disposizione le sue strutture per accontentarla nel suo desiderio di allenarsi con Luca. Lore ha guadagnato l'anno precedente 1,5 milioni di euro solo con le sponsorizzazioni e ha strappato contratti pubblicitari con alcuni marchi sulla cresta dell'onda. I media sono pazzi di lei, seguono le sue vicende quotidianamente e averla è decisamente un colpo grosso. Lore non ci pensa 2 volte a lasciare l'allenatore che l'ha scoperta e fatta vincere, Philippe Lucas. Arriva in Italia e comincia ad allenarsi. Inizia anche a pretendere sempre di più. È arrogante con il suo team, vorrebbe dettare legge. Non è puntuale né rispettosa del lavoro degli altri. A volte fa perfino i capricci, si rifiuta di scaldarsi. Un comportamento che il campione Michael Phelps giudica intollerabile. Penso che tutti abbiamo i nostri momenti di fragilità. Capita sempre il giorno in cui si avrebbe voglia di non allenarsi. Ma bisogna stringere i denti. Gli altri del team sono tutti lì per te e bisogna solo ringraziare. La decisione di trasferirsi non si limita a influenzare la sola vita di Lore. Crea un disordine diplomatico tra Francia e Italia, che non vede di buon occhio il fatto che Lore si alleni nella stessa squadra con Federica, sua diretta rivale in vasca. 2 politici delle rispettive nazioni sono invitati a intervenire sul caso. E dopo poco tempo, la Manaudou viene rispedita a casa. Ieri sera, dopo 3 ore di negoziazione, la società La Presse di Torino ha deciso di licenziare Lore Manaudou. E lei se n'è andata come è venuta, senza neanche contratto. L'allenatore italiano Paolo Penso, che l'ha accolta a braccia aperte e ce l'ha messa tutta per sostenerla, è amareggiato e rilascia un giudizio lapidario sulla sua ormai ex pupilla. Credevo che la Manadù, oltre a girare le braccia, avesse anche imparato a vivere. Invece... Lor sguinzaglia gli avvocati. È proprio la mancanza di un contratto che innesca il suo tentativo di rivalsa. La nuotatrice francese ha in serbo accuse pesanti. Dice di essere stata manipolata per lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine. Parole dure che fanno discutere la Francia sull'opportunità di riaccoglierla o meno dopo il grande tradimento. Ma alla fine Lor torna a casa, lasciando in Italia il suo Luca. Volevo solo approfittare dell'occasione. Non mi importava niente della delusione, della Francia, dell'Italia. Io ero solo arrabbiata perché volevo allenarmi con Luca. Lor è senza squadra e senza allenatore. Philippe Lucas, il coach abbandonato da un giorno all'altro per scappare in Italia, è rancoroso e non se la sente di ritornare a lavorare con lei. Lor telefona a suo fratello, che ha solo un anno più di lei, e gli affida la responsabilità dei suoi successi. Lui allena già il fratellino piccolo, Florent, ma c'è una bella differenza tra allenare un ragazzino, per quanto promettente, e una campionessa mondiale che deve puntare sempre più in alto. Ancora una volta Lor fa una scelta controcorrente. Ma non è il suo unico colpo di testa. Di punto in bianco, dalla sera alla mattina, Lor lascia Luca. Dopo le dichiarazioni plateali, i guai tra i rispettivi paesi, l'amore sbandierato ai quattro venti, lui è distrutto, non si dà pace. E ogni volta che prova a cercare Lor per avere spiegazioni, lei lo liquida con poche parole di cortesia. Fino all'esplosione, sotto gli occhi del mondo intero. 2007, Ungheria, campionati europei in vasca corta. Luca sulla porta del suo spogliatoio è teso e agguerrito. Per la gara, certo, ma anche perché il giorno prima ha visto Lor sulle prime pagine di tutti i giornali mentre sta baciando quello che il gossip dà per suo nuovo fidanzato, il dorsista Benjamin Stasiulis. Luca, quando lo vede per provocare Lor, lo avvisa che presto lei lascerà anche lui senza farsi troppi problemi. A questo punto la Manadù ha uno scatto d'ira. Si toglie l'anello che Luca le aveva regalato e glielo tira addosso, colpendo però il povero Filippo Magnini che si sta scaldando. Lor ha tirato, cioè ha ridato l'anello a Luca, però insomma tirandolo. Cioè... E anziché prendere lui ha preso a me. Cioè, mi sono ritrovato nel mezzo, però al di là di quello diciamo che non è il fatto che ha preso a me o prendeva Luca, non cambia niente. Il fatto è il gesto, perché penso che sia un gesto sbagliato lanciare un anello comunque in mezzo a una piscina per fare una sceneggiata del genere, quindi... è un gesto da bambini e quindi ha fatto la figuraccia, quello è sicuro. Noi abbiamo riso perché vedere una roba del genere a noi ci fa sorridere. A Destini Incrociati siamo in Ungheria, ai campionati europei di nuoto in vasca corta del 2007. Lor Manadù, la stella dello sport francese, ha appena fatto una scenata in mondovisione al suo ex fidanzato, il nuotatore Luca Marin. Gli ha tirato addosso l'anello che lui le aveva regalato, ma che è andato a colpire Filippo Magnini. Poi se dopo Luca è andato da lei a dirle, cioè è andato da lei a dirle che insomma aveva fatto un brutto gesto, per me è stato soltanto un signore, perché poteva meritarsi anche qualcosa di peggio, quindi la Francia può fare tutto quello che vuole, ma penso che la figuraccia la fa lei e Luca non è la parte in torto in questo momento. Per Lor è solo l'inizio di un lento declino. Il giorno dopo, su un blog, appaiono alcune sue foto nuda e immediatamente si pensa a una vendetta di Marina. Luca dichiara che non c'entra, anzi, si dice addirittura pronto ad agire per vie legali. Intanto, le immagini fanno il giro del mondo proprio nei mesi delicatissimi in cui bisogna prepararsi per l'appuntamento più importante, le Olimpiadi di Pechino del 2008. Lor Manadù e Federica Pellegrini sono le ragazze del nuoto su cui puntano rispettivamente Francia e Italia. Su di loro la pressione è fortissima e gli allenamenti che le due devono affrontare quotidianamente sono estenuanti. Federica però riesce anche a distrarsi. Ha trovato l'amore ed è proprio lui, Luca Marin, l'ex fidanzato dell'eterna rivale in vasca. Va a gonfie vele anche la sua storia d'amore con il collega, il nuotatore Luca Marin. I due, belli e innamorati, sono stati immortalati in queste fotografie durante una romantica vacanza alle Seychelles. Federica è al settimo cielo. Sa che Luca non la distrarrà dal suo obiettivo mondiale, ma non la pensa allo stesso modo Alberto Castagnetti, il suo allenatore, che non vede di buon occhio una storia in un momento in cui bisogna essere solo concentrati sul nuoto. Lore intanto, abituata come al solito a buttarsi con tutta se stessa nelle sue storie d'amore, si prepara con lo stesso club del suo nuovo fidanzato. L'obiettivo per tutte e due è conquistare Pechino. I Giochi Olimpici di Pechino sono l'evento mediatico che si prepara a essere visto da almeno 4 miliardi di persone e verrà trasmesso per la prima volta in alta definizione. 11.000 volontari, un centinaio di cani poliziotto, agenti a cui sono state impartite lezioni di lingue, misure di sicurezza imponenti, norme sul decoro urbano e un invito alla popolazione a dimostrarsi ospitale e collaborativa nei confronti delle centinaia di migliaia di stranieri in visita. Un'organizzazione che dura da mesi, ma niente di tutto questo interessa a Federica e Lor, che si preparano ad affrontare la gara più importante. Le due escono dallo spogliatoio e si lanciano in uno sguardo di fuoco. Finora i loro destini, in vasca e in amore, si sono incrociati in modo indissolubile e ancora una volta saranno legate a doppio filo. Quando una perde, l'altra vince. È sempre stato così. Ma questa volta l'incontro è ancora più potente, perché se per una è il trionfo, per l'altra è la fine di una parabola discendente che porta all'oblio. Lor si classifica malissimo, esce dalla piscina e scoppia a piangere senza consolazione. Aveva dichiarato che se avesse portato a casa buoni risultati a Pechino, si sarebbe ritirata dal nuoto. Forse era solo un modo per proteggersi, per mettere le mani avanti. Non sono più quello che la gente si aspetta. Mi sveglio la mattina e non ho più voglia di nuotare. Nessuno crede più in me, e io per prima. Più che parole di sfogo, un vero e proprio ritiro annunciato, che infatti nel 2009 avviene definitivamente. Lor sceglie ancora una volta l'amore perché, come ha sempre sostenuto, la vita è altro oltre al nuoto. E ad aprile dà alla luce Manon, la sua prima figlia, frutto della relazione con Frédéric Bousquet, palestratissimo nuotatore dal carattere, se possibile, ancora più eccentrico della sua compagna. Per Federica Pellegrini, invece, Pechino è un trionfo. 25 metri, grande fatica adesso, grande fatica. Grande fatica. 1:54:47 è il record del mondo. Oro nei 200 metri stile libero è il record del mondo. È l'apoteosi. La strada è tutta in discesa. Federica inizia a macinare successi e record, come ai campionati del mondo di Roma del 2009. Federica resisti! Deve resistere, è medaglia d'oro, se ce la fa è medaglia d'oro, sì. Medaglia d'oro! Conquista la medaglia d'oro nei 400 metri stile libero femminili con il tempo di 3 minuti, 59 secondi e 15 centesimi, stabilendo così il nuovo record del mondo della specialità, prima donna al mondo a scendere sotto i 4 minuti. Un sogno per lei. Sì, no, bellissimo, soprattutto comunque in questi mondiali che erano in casa, per noi era una soddisfazione unica, devo dire, poi cantare l'inno in casa propria con tutto lo stadio che ti segue a ruota libera è stata una cosa fantastica. Regina del nuoto, che si prepara ai mondiali di Shanghai e alle Olimpiadi di Londra con l'intenzione di aggiungere anche i 100 metri alla lista delle gare da affrontare. Un percorso duro dopo la morte del suo allenatore e secondo padre, Alberto Castagnetti. Alberto, come ho spesso detto, è diventato un mio alter ego, no? Ce l'ho sempre in testa perché comunque ogni volta che mi parlava metteva sul solito disco e andava avanti, quindi ormai l'ho imparato a memoria e gira ancora tuttora nella mia testa e mi aiuta tantissimo, insomma. Federica ha tutta la vita davanti e Alberto sempre nel cuore. Con lei c'è un fidanzato, Luca Marin, con cui le cose vanno a gonfie vele e un forte interesse corrisposto verso il mondo della moda. Federica adesso è sulla cresta dell'onda. Dalla piscina alla passerella il passo è breve, soprattutto per una come lei. Capelli biondi, fisico atletico, bellezza pulita e labbra carnose. Federica piace. Tanto che anche Re Giorgio Armani l'ha voluta come testimonial alla sua sfilata in occasione della settimana della moda. E lei, campionessa di stile libero, di stile appunto ne ha da vendere. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.